prendere la parola. Il nuovo programma culturale del Centro di Documentazione di Pistoia. Bene, buonasera a tutte e tutti. Grazie per essere qui in questo pomeriggio e condividere un'oretta di conversazione. Sono Luca Scioni, faccio parte del Centro di Documentazione di Pistoia e insieme al gruppo abbiamo organizzato questa iniziativa culturale che si chiama Prendere la Parola, in collaborazione con case editrici quali Eleutera, Edizioni dell'Asino, Gli Ori, Neri Pozza e associazioni CDI, Centro para la Educación, Desarrollo e la Investigación, e Fango Radio, che ci assiste e ci aiuta nel supporto tecnico e radiofonico che fino ad ora negli incontri che abbiamo organizzato li possiamo trovare, li potete trovare come podcast registrati sulla pagina web del Centro di Documentazione di Pistoia. E di Prendere la Parola è un'iniziativa che ha ricevuto anche il contributo della Fondazione Caripiti nel programma culturale Io Resto Attivo. La nostra idea era di semplicemente mettere in circolo, in dialogo, riflessioni, opinioni, parole appunto riguardo ai temi dell'educazione, della pedagogia, della libertà, attraverso la testimonianza di autori quali Ivan Illich e curatori del libro di Ivan Illich Una fiamma nel buio, Ivan Illich e David Calley, e allo stesso tempo con Pietro Gaglianò abbiamo avuto l'occasione, la possibilità di avere questo incontro, autore del libro La sintassi della libertà. E poi di nuovo su Illich. Poi di nuovo celebrare la consapevolezza su Illich, grazie. E l'idea era appunto mettere in dialogo più autori, più punti di vista riguardo ai temi dell'educazione e della pedagogia, mettendoli a confronto coscienze individuali, collettive, con le strutture convenzionali che il nostro sistema educativo ci ha proposto se non imposto. E quindi appunto lascerei la parola a Giulio Civilini, compagno del Centro di Documentazione di Pistoia, che ci presenta il libro e l'ospite di oggi. Sì, allora, i libri di cui parlava Luca sono libri che sono usciti di recente, o meglio, curatele più recenti o pubblicazioni recenti, mentre oggi si parla di un libro che è stato scritto più o meno nel 2004-2005 e pubblicato nel 2006. Sì. Pubblicato nel 2006 la prima volta a Cartagena de Indias, quindi in Colombia. Ripubblicato nel 2013 sempre a Cartagena de Indias, in spagnolo. Ed è un libro su cui che è in cantiere l'edizione italiana, e che è stato scritto da Roxy Elena Montero Prens, che è qui con noi. Il libro si chiama Rutas. Roxy noi l'abbiamo incontrata qualche anno fa ed è in qualità di esperta di educazione, in educazione, ricercatrice, psicologa presso l'Università di San Buenaventura, sì, sempre a Cartagena de Indias, e soprattutto fondatrice nel 2005 del Centro para el Desarrollo, l'Educación y la Investigación. All'interno di questo contesto ha sviluppato un modello, appunto modello CDI, che è come dire il nucleo di cui si parla all'interno del libro. Quindi andrei subito, facciamo un applauso a Roxy. E io parlerei subito del libro. Lo introduco brevemente, un po' malamente forse. Il libro si presenta come un manuale, no? Nel suo titolo. Ma non si presenta in maniera come un manuale, in maniera standardizzata nella sua forma. Per cui la prima volta che l'ho letto, mi trovo davanti, che lo leggo, mi trovo davanti ad un racconto in cui un vecchio professore sta terminando una conferenza. Al termine di questa conferenza entra in contatto con i giovani insegnanti che si stanno formando appunto attraverso la conferenza e stabilisce con loro un rapporto, una relazione, un dialogo che avviene brevemente attraverso uno scambio di parole e prosegue attraverso un testo che questo vecchio professore lascia a questi due insegnanti barra studenti. Quindi è un manuale, ma che non ha la forma tradizionale di un manuale, si potrebbe dire. Per cui questa riflessione su cosa sia l'educazione e su che cosa sia lo sviluppo interiore e integrale della persona non è una speculazione, non è proposto in maniera speculativa, è proposto in maniera scientifica allo stesso tempo, è proposto in maniera narrativa. Ok, quindi non so se ho fatto un'introduzione adeguata, però ecco, andrei subito a fare due domande, una domanda che mi sembra fondamentale per avanzare nella discussione. E la domanda è molto semplice, la domanda è: si discute su che cosa sia l'apprendimento, su che cosa sia lo sviluppo della persona, no? Lo si fa in maniera scientifica, più o meno scientifica, lo si fa in maniera più o meno filosofica. Ci puoi, per introdurci al modello CDI, al contenuto del libro, ti andrebbe di provare a dare una definizione del concetto di apprendimento senza concetto, dell'apprendimento e dello sviluppo della persona? Che cosa si intende con queste due espressioni? Che cosa intendi te con queste due espressioni? Ok, ma io in primo luogo vorrei dire che ogni iniziativa, ogni modo di vedere l'educazione, lo sviluppo, comporta dietro un modo di vedere anche la vita e l'essere umano. Quindi parlare di educazione o parlare di apprendimento dal punto di vista del modello CDI, del RUTAS, implica parlare della capacità che hanno gli esseri umani per trovare il modo di decodificare, a volte prendo fatica a trovare la parola in italiano, decodificare la realtà e farla propria, farla parte di sé, sì. E trasformare quella realtà in un modo che sia adatta perché lui e altre persone o altre situazioni vadano avanti e in modo giusto. L'apprendimento visto così è un attributo intrinseco degli esseri umani, non solo, però parlando di sviluppo umano è anche un modo per trovare la strada per arrivare al proprio sviluppo. Ora, quando io parlo di sviluppo umano intendo la capacità di noi per concepire il mondo in modo ogni volta più complesso. Di solito quando si parla di sviluppo umano si parla sia della prospettiva tradizionale, si parla di Piaget, si parla di Freud, si parla di altri teorici di sviluppo che concepivano lo sviluppo fino alla crescita. Vuol dire quando la persona arriva a un'età, a una certa età, smette di svilupparsi. Se noi vediamo la teoria psicosessuale, la teoria psicosociale, la teoria cognitiva, arriviamo a un sviluppo che finisce con l'adolescenza o un po' più. Invece la concezione più vicina al CDI di sviluppo è un processo di trasformazione dell'essere umano in dove arriva a livello più complesso di comprensione dell'intorno dove è immerso. Vuol dire che noi siamo in sviluppo da quando siamo concepiti. Grazie, concepiti fino alla morte. Quindi è un processo che è ininterrotto, ma anche un processo sul cui possiamo fare noi, scusa, voy a usare la parola in spagnolo. Meglio, più meglio. Sobre il quale podemos incidir. Okay? Possiamo incidere. Grazie. È un processo sul quale possiamo incidere. è per quello che Rutas giustamente propone un modello per incidere nello sviluppo delle altre e in un ruolo di facilitatori. Non so se... Sì, sì, mi è venuto in mente mentre parlavi che nel libro la dimensione, la prospettiva del concetto viene sviluppata come in un'ottica ciclica, cioè lo sviluppo integrale della persona è uno sviluppo che inevitabilmente presuppone un percorso ciclico. Torna? Certo, siamo... Puoi illuminarci su questo? Lo sviluppo della persona comporta affrontare le stesse situazioni simili da livello diverso di comprensione delle stesse. Noi quando abbiamo 3 anni stiamo in una situazione, sentiamo 2 persone parlare, abbiamo una comprensione di quello che stiamo sentendo che è diversa quando abbiamo 10, quando abbiamo 20, perché lo stesso dialogo e la nostra comprensione, scusa, dello stesso dialogo è alimentata, posso usare quella parola? Alimentata. È alimentata, nutrita, grazie, per la nostra vivenza della realtà. Quindi questa visione ciclica dello sviluppo vuol dire la consapevolezza di che noi possiamo avere diverse opportunità, diverse occasioni per arrivare alla generazione, per arrivare alla stessa capacità. E in quel modo noi vamo incrementando il nostro dominio di quella capacità, capito? E questo ciclo vuol dire che noi possiamo cominciare un percorso di sviluppo in qualsiasi momento del nostro ciclo vitale. Un percorso intenzionato, perché di fatto tutti transitiamo un percorso di sviluppo. La differenza è quando questo percorso è un percorso intenzionato, quando c'è lì una decisione, una scelta di trovare il modo giusto per arrivare a un livello più complesso e più ricco di appropriazione di quella capacità. Ok? Chiaro. Ecco, addentrandosi in Rutas, parli in maniera molto chiara e concreta di aspetti metodologici che si associano allo spazio dell'educazione e della facilitazione dello sviluppo. Elementi come il tema dei ruoli, delle relazioni e degli spazi appunto di apprendimento che poco fa ci raccontavi. Ecco, in Rutas ci si riferisce per tutto il corso della narrazione al rapporto, alla relazione tra guida e esploratore. In che maniera, ti chiedo perché tu ci possa un po' più chiarire, in che maniera il rapporto, la relazione tra guida e esploratore può diventare un'occasione di costruire spazi di sviluppo e di coeducazione dove entrambi possono reciprocamente nutrirsi? Ok. Mi sembra che forse molti di chi siamo qui abbiamo che vedere qualcosa con educazione o con essere guide di altri in suo percorso di sviluppo. E sicuramente per la propria vivenza sappiamo che in quel scambio che accade tra un soggetto in sviluppo e un adulto o un professionale che fa un ruolo di guida in qualsiasi modo, c'è anche un processo di crescita per quell'adulto che fa o dovrebbe accadere. Non sempre accade, e non sempre accade a volte perché chi gioca questo ruolo c'è un ego così gigante che pensa che quell'altro, quell'allievo o quel studente non c'è niente di dare, non c'è niente di condividere con lei. Lo che io propongo in Rutas è che in quel scambio, quando si dà in modo intenzionato, quello che fa di guida, che lo sai, chiamiamo facilitatore nel modello CDI, quel facilitatore è una persona che anche vive un percorso di sviluppo. Quindi quella esperienza vitale, quel scambio con il partecipante è un'opportunità per trovare nuova informazione su se stesso prima e sull'altro. E quindi io uso una frase nel libro, è: para ser guía hay que ser explorador. Vuol dire, per essere guida deve essere anche esploratore. E quindi noi non possiamo pretendere andare avanti in un percorso che non conosciamo. Nessuno di voi andrebbe all'Amazzonia, andrebbe alla Colombia, per esempio, darebbe l'incarico a un altro italiano che mai è andato a Colombia perché le mostra la città o le mostra il paese, vero? Per poter essere guida, prima tu devi conoscere quel percorso che vuoi facilitare. Invece molti di noi, quando facciamo il lavoro di facilitatori, pensiamo che con andare a un'università basta, che con quello che si impara nell'aula è abbastanza per guidare altri. Però noi abbiamo anche un nostro processo di sviluppo che abbiamo bisogno di approfondire la sua conoscenza con un approccio scientifico, non con un approccio incidentale o aneddotico, sino con un approccio scientifico. Abordare il nostro sviluppo con quell'approccio permette a noi avere più strumenti per essere un facilitatore giusto, una guida giusta per queste partecipanti che si affida di noi. Sì, perché di fatto i bambini, i ragazzi, la gente nella comunità crede al facilitatore, crede al maestro, quello che le diciamo loro lo credono, sia quella cosa che è giusta che quella che no. E se noi diciamo a un ragazzo che lui, o a un bambino, che lui non può, che non arriva, che non è in grado di, lui va a fare tutto quello che possa fare per darci la ragione a noi. Perché c'è un rapporto emozionale che media tra il facilitatore e il partecipante, o tra il guida e quello che è guidato. Quindi questo esercizio, io lo che propongo è che è un esercizio che deve essere cosciente della figura del facilitatore. Sì, conoscersi il proprio processo di sviluppo, conoscere il sviluppo umano, approfondire la conoscenza scientifica dello sviluppo e vedere quale di questi elementi in particolare sono utili per ogni persona con la quale lavora, per ogni bambino, per ogni ragazzo. Okay? E quindi, così come il mio percorso di sviluppo è unico, io devo capire che il percorso di sviluppo di ognuno della persona con la quale lavoro è proprio, è singolo, diciamo. Grazie. E, appunto, allora apri mi dai la possibilità per poterti chiedere. Rutas è una realtà vissuta prima di tutto, diciamo, sulla tua pelle, cioè sulla esperienza personale che viene in maniera anche, diciamo, allegorica, ma con fondamento scientifico, raccontata in Rutas. E quindi nel testo si fa riferimento all'assimilazione della vita come un labirinto, come un labirinto nel quale perdendoci ci possiamo ritrovare, a percorsi che possiamo intraprendere. Non so se il fischio viene forse da questo. Da là? Ah, è Giulio, ok. Giulio, sei te. Sei sempre il solito. È serio. E a porte che appunto vivendo questi percorsi riusciamo ad aprire e a tesori che possiamo conoscere. Ecco, ti chiedo quindi con che bagaglio esperienziale, ricordiamo appunto che Rutas è stato scritto 15 anni fa più o meno, in un contesto geopolitico, geografico, che è quello di Latin America, più precisamente Colombia, Cartagena. Ecco, con che esperienze personali e di impegno sociale, civile, hai aperto la porta di Rutas? Cioè, se per integrare la domanda, se puoi fare anche riferimento ai contesti, alle comunità, ai gruppi sociali in cui hai lavorato, perché questo è un lavoro che te fai da tutta la vita. Ok, quindi quello che racconti nel libro è il frutto sia di una riflessione scientifica, perché sei una scientifica, sia il frutto di un'esperienza di lavoro sul campo in un contesto diverso dal nostro. Quindi se riesci a integrare nella domanda sia la parte del tuo impegno civile sia la parte della tua riflessione, la tua speculazione, diciamo. Di solito quando io parlo con le mie studenti nell'università, io le dico che quando te studi un autore è importantissimo conoscere anche il contesto nel quale lui è cresciuto e anche ha costruito la sua opera, perché la interpretazione di quello che si dice non può essere staccata da quello di chi lo dice, capito? Della sua vita, del suo percorso. E, appunto, diciamo, Rutas fa una raccolta non solo dell'esperienza, ma anche di un lavoro di ricerca fatto da molto piccola, devo dire. E prima è stata un'esperienza della mia vita come parte dei gruppi di giovani, sia nella parrocchia, io sono cattolica, quindi nella parrocchia io ho fatto parte dei gruppi di giovani, però comunque in questi gruppi io percepivo la mancanza di una linea veramente per toccare alla persona, insomma, era più un fare, non un diventare, insomma, era un lavoro più attivista, non so come si dire in italiano, era sì, attivismo. Un attivismo, diciamo. Civico. E dopo ho cominciato a trovare altri ragazzi che avevano la stessa inquietudine mia, ma venivano da altre realtà. Alcuni non avevano nessun tipo di credo religioso, però ci abbiamo trovato insieme in un luogo che si chiamava Fund dei Jóvenes. È un po' un luogo dove ci troviamo quelli che non avevamo trovato un luogo dove essere, perché la nostra testa andava in altre cose, diverse da quello della nostra generazione. Io ho deciso di studiare psicologia per questa ragione e andato all'università a studiare psicologia. E io ho cominciato, quando era all'università, un percorso di ricerca. Mi è iscritto nell'area della ricerca in psicologia e ho cominciato a fare la ricerca giustamente su che cosa è quello che fa la differenza tra un processo esitoso per la vita di una persona, un processo di sviluppo esitoso per la vita di una persona a quello che non lo è, diciamo, che non è esitoso. Diciamo, che cosa fa la differenza? E quindi ho studiato diversi processi inizialmente di giovani sia nella Colombia che in altri paesi di America Latina. E poi ho fatto la mia tesi di laurea sul sviluppo, su quei fattori che facevano la differenza. E dopo ho cominciato un esercizio di approfondire nelle teorie di sviluppo. Quella cosa che ho trovato è che quando si parla di sviluppo si parla di parte della persona, parte della persona, parte. Sì, di pezzi, componenti di pezzi della persona. Parti della persona. Però non esiste una teoria di sviluppo che possa parlare di tutta la integralità dell'essere umano. Tu guarda la teoria che parla dello sviluppo morale, la teoria di Colbert, per dire qualcuna. Tu trovi la teoria che parla di sviluppo della personalità del soggetto senza avere presente la parte biologica o della personalità accanto alla parte biologica. Sono parlando per esempio della teoria di sviluppo psicosociale e della teoria di sviluppo psicosessuale. O tu trovi altre teorie che si centrano nello sviluppo cognitivo del soggetto o che si centrano nello sviluppo dell'estetica, capito? Ognuna di queste teorie sembrava in pelea. Sì, che si scontrasse. Sì, si scontrava con le altre. Tu parla con qualcuno e ti dice no, ma se ti piace il conduttismo tu non puoi, non ti può piacere il costruttivismo, non ti può piacere il psicoanalisi. Dopo di studiare durante più o meno 8-9 anni queste diverse teorie, io quello che ho trovato è che loro parlano dello stesso soggetto, ma si ubicano in un, da una prospettiva diversa e con un enfoque diverso. Vuol dire che guardano una parte del soggetto, ma anche di un luogo specifico. Non è vero che queste teorie sono, siano scontrati. Si escludano una all'altra, semplicemente parlano di frammenti diversi del soggetto. E quindi io ho cominciato a costruire una prospettiva di sviluppo umano, no, si dice prospettiva? Sì, una prospettiva. Okay, una prospettiva di sviluppo umano che io ho chiamato la prospettiva della potenzialità. E ho provato di mettere in dialogo questi diversi modi di approcciare, avvicinarsi all'oggetto, che all'oggetto soggetto, siamo noi come esseri umani. Poi la grande domanda era come si fa nella pratica a fare qualcosa con questa teoria pazza che io mi ho tirato fuori della manga, che non è vero, però. E quindi era veramente la domanda, insomma, come si fa a mettere in pratica questo, si può o non si può? E quindi ho cominciato un processo di fare la formazione di altre persone che un po' erano in sintonia con una metodologia che parte dalla necessità di ogni soggetto. E quindi durante 4 anni si è messo in prova questo in diverse realtà. Per voi parlare di America Latina forse è informazione che arriva attraverso le medie di comunicazione, qualcuno avrà avuto l'opportunità, l'occasione, te per esempio, di andarci. E sa che c'è una distanza enorme tra la gente, anzi nello stesso luogo, nella stessa città, tra quello che hanno tutti e quello che non hanno niente. E, nonostante, si dice così? Nonostante. Ok, nonostante, io lo che ho trovato è che con tutti si può lavorare de diversi, diciamo, dallo stesso modo, sempre che tu parta dalla realtà di che ognuno è diverso. Quindi la prospettiva della potenzialità ha cominciato a mettersi a prova, per esempio, con organizzazioni sociali che lavoravano dentro le scuole, con piccoli gruppi di ragazzi in un quartiere qualsiasi, con organizzazioni più grandi che avevano molti soldi, perché io lo che volevo arrivare era a capire se questa premessa e questa teoria del cambio che era subiacente, non so se quella parola esiste, sì, diciamo che era sotto, diciamo, nella base di quello che io planteava, era applicabile di un modo, tra virgolette, più universale. Dopo di questi 3 anni ci abbiamo tirato fuori il primo schema, diciamo, del modello CDI, e quello è lo che ha dato origine a Rutas. E quindi Rutas è anche un prodotto molto, molto prematuro, diciamolo così, perché dopo di questo sono 15 anni che si implementa il modello CDI. Sì, io le dicevo ai ragazzi, diciamo, se io dovessi scrivere nuovamente avrebbe scritto altre cose o avrebbe detto forse molte cose uguali ma in un altro modo, però fa parte della crescita, fa parte di questo esercizio di alimentare ogni volta di più. Forse mi è stendito un po'. Ma hai fatto proprio bene. Dovevi andare avanti su questo punto? Ma improvvisiamo. Allora, io volevo chiedere, giusto perché sì, ora avevi affrontato il tema del metodo. E in Rutas, appunto, si mostra attraverso immagini e figure, si racconta un po' il metodo dei tre momenti dello sviluppo della persona. E è interessante vedere come si parli di questo metodo attraverso un'allegoria che è quella della città dei tre momenti. Ecco, la città dei tre momenti che cos'è? Così. È una metafora, basicamente. Insomma, io parlo dei tre momenti per il sviluppo dell'autonomia. Insomma, noi, anzi tutti gli animali, insomma, non solo gli esseri umani, hanno bisogno di guadagnare, di, no, guadagnare si dice, di acquisire. Sì, acquisire. Acquisire le capacità attraverso la prova. Quando hanno qualcuno lì vicino per farle de guida, questa acquisizione di quella capacità è più veloce. E quindi io lo che dico è che di solito il processo educativo parte di un momento direttivo dove c'è una persona che ha la capacità, ha il dominio di quella capacità, ma le dice all'altro che fare e come farlo. E quindi quell'altro che è lì nel ruolo di partecipante o di studenti, per esempio, fa quello che le dicono quando lo dicono. E come, è giustamente come lo dicono, sennò è bocciato, vero? E quello è un momento necessario, non è, il momento direttivo non è un momento banale, è un momento importante, ma non è sufficiente, insomma, non basta per arrivare all'acquisizione della capacità. Il soggetto ha bisogno di arrivare a un punto dove lui sia in grado di dire che fare, come farlo e farlo. E quello per me sarebbe il momento autonomo, il terzo momento. Tra questi due momenti deve avere un incontro tra un facilitatore che dà la possibilità al partecipante di fatto partecipare, di prendere decisione insieme, di condividere la responsabilità. Come questo a volte è molto denso per esplicarlo in modo che il libro lo esplica in un modo scientifico e metodologico, però il libro è pensato non solo per chi ha un pensiero lineale o una logica aristotelica, il libro è pensato anche per quelli che hanno un modo di avvicinarsi alla realtà più come si dice, divergente. Sì, sì. Diciamo, c'è un pensiero divergente. O che hanno un approccio più visuale o più ludico. E quindi il libro presenta? Sì, sì. Mostra ogni tanto informazione che avvicina a questo modo di vedere la realtà, questo dello tre momento. La città dei tre momenti, la storia della città dello tre momento è quello. È un modo per raccontare come si vive il momento direttivo, il momento partecipativo, il momento autonomo, non so se si pronuncia così in italiano, mi dispiace, in un modo che qualsiasi, i bambini, adulti, quello che sono più scientifico, quello che sono più artista, potrebbero avvicinarsi di un modo amichevole. E quindi racconta basicamente la vita in una prima città dove... più o meno la città nostra, quella dove viviamo, dove hai un'autorità che dice c'è una regola, ma abbiamo una cosa che si chiama in psicologia locus externo, vuol dire che è fuori la legge, la norma è fuori di me, e quindi io ho bisogno di in qualsiasi modo sapere che esiste un grande fratello che vigila e che fa cumplire la legge e che punisce quando non viene fatto quello che si deve fare. E questa città è il punto di partenza, è il momento direttivo. E la città del secondo momento è una città dove quello che hanno l'autorità, che non il potere, l'autorità, si mettono in confronto con tutti i cittadini per mettersi d'accordo anche per stabilire le regole, per mettersi d'accordo su come farla cumplire, che costruisce le regole in un termine positivo per dire qualcosa invece di dire non sporchiamo, diciamo manteniamo puliti. Per esempio, è un esempio un po' banale, però è questo esercizio porta avanti un modo di interagire in modo tale che l'autorità non viene data per il ruolo, viene data per la capacità, sì? è un'autorità che è condivisa perché la gente, siamo i partecipanti e facilitatori, sono in grado di capire quali sono le mie capacità e quali sono la dell'altro e dare a ognuno il compito giusto per quella capacità. E capendo che questi ruoli si vanno scambiando in virtù di quello che dobbiamo fare. E quindi se io ho bisogno di impaginare un libro, per esempio Fabio avrebbe l'autorità, però se io ho bisogno di fare un programma di radio, e quindi l'autorità, e quindi lui dovrebbe seguire a Lorenzo, capito? E quella è la città del secondo momento. E la città del terzo momento è una città dove ognuno si regola, dove ognuno chiede aiuto quando ha bisogno, ma non ce l'abbiamo una necessità di avere nessuno chi si prenda cura delle altre in un modo punitivo. Però abbiamo bisogno di avere amici che sappiano che fare, come farlo. E quindi il facilitatore, quando arriva il momento autonomo, diventa una figura che non è più una figura di autorità, sino è una figura con la quale il partecipante c'è un vincolo emozionale così forte che si sente in grado di andare da lui o da lei, anzi se hanno passato 20 anni e tu già non c'è più nessun rapporto lavorativo con me, però ci abbiamo costruito un rapporto di fiducia nella capacità dell'altro tal che io sono in grado di capire quando non arrivo all'obiettivo e quindi cerco aiuto dove ho bisogno. Grazie. Prego. Prendi la parola. Sì, no vabbè, quanto tempo abbiamo? Fino, ci siamo ancora 20 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti, 5 minuti, finito. Vabbè, ok, io avrei una mezz'ora, ok. Sì, ora mi verrebbe un attimo da riprendere le fila del discorso prima di passare a un altro Ripartiamo argomento. Ripartiamo da zero. Prima di passare a un altro argomento, perché... quindi la primissima domanda che si è fatto è provare a dare una definizione di che cosa sia lo sviluppo e siamo arrivati a dire che si può parlare realmente di sviluppo integrale quando integrale della persona, di sviluppo anche all'interno di un contesto, di una comunità, di un gruppo sociale, presupponendo un certo livello di consapevolezza e di intenzionalità da parte di chi partecipa a questo processo, no? Di consapevolezza sia del processo stesso in atto, sia delle dimensioni interne, delle dimensioni cognitive e delle dimensioni emozionali, emotive coinvolte all'interno del processo, cioè sapere che sta avvenendo, che stiamo lavorando al fine dello sviluppo nostro come persone, come comunità, e sapere che sono molte le dimensioni che devono essere coinvolte all'interno di tutto questo. Secondo te, ora faccio una domanda che non è in scaletta, ma secondo te quali sono le implicazioni politiche? La parola mai. Ci sono delle implicazioni politiche? Perché insomma, se ora ci mettessimo a parlare di scuola, ci mettessimo a parlare di educazione, non si finirebbe più. Quindi ti fa la domanda molto così, quali sono le implicazioni politiche? Io, prima di rispondere alla tua domanda, come tu ha fatto un discorso prima, io voglio chiarire una cosa. Lo sviluppo umano accade con o senza consapevolezza. Sì, certo. Diciamo, c'è una cosa che non si può fermare, sì, sì. Capito? Quello che io, dico è che quella consapevolezza fa che quello sviluppo diventi un sviluppo progressivo, autonomo, capito? E che la persona arrivi a livelli più vuoi usare la parola, più alto di sviluppo. Però accade comunque. Ora, ma hai detto che l'obiettivo è l'autonomia. Certo, l'obiettivo è che il soggetto arrivi a un livello di consapevolezza della propria capacità di svilupparsi. L'essere umano è perfettibile, non è perfetto, quindi non arriva mai a un punto dove non può essere ancora meglio, capito? Ed essere umano è perfettibile, quindi questa perfettibilità è quello che fa che durante tutto il ciclo vitale quello sviluppo può essere spinto. A volte uso parole brutte, però adeguate, perfette. E detto quello, è vero che lo che io planteo è di fatto una proposta politica, perché quando si parla di sviluppo non si può escindere, si può, quella parola esiste, scindere, sì. Scindere, escindir, si dice in español, ognuna di questa realtà. Una delle dimensioni della quale parlo nella prospettiva della potenzialità è la dimensione politico-sociale, perché l'essere umano ha bisogno di imparare che quello che fa, che ogni cosa che fa, ha un, posso dirlo in spagnolo? Prego. E tu, grazie. Che cada cosa che hace impacta en su vita e en la de los demás, non solo nel momento presente, sino también che cada una de las decisiones que toma incide en la realidad social de la que hace parte. Entonces, plantear un modelo como este necesariamente plantea una elección política, una scelta política. Que la scelta que ogni persona fa sulla propria sfera, sulla propria vita, incide per forza di cose nel contesto sociale in cui è inserita. E per questo non solo incide nel contesto sociale in cui è inserita, ma anche, e non solo quindi nel presente, ma anche nel futuro, quando si parla appunto del relazionamento intergenerazionale. Per questo che la scelta che fa la singola persona è una scelta politica, è una scelta di posizione, perché sa che incide sia nel suo contesto presente, ma anche nel contesto futuro. Ok, e quindi sì, io parto della... Io faccio la partenza della definizione di sviluppo umano di Uri Bonhoeffer-Brenner. Lui plantea che il desarrollo è alcanzar un livello di comprensione della maggior complessità in los diferentes niveles de desarrollo. Era distratto. L'ombrello mi sembrava stesse volando e allora mi ha preoccupato. Devo ammettere. Va bene, Bonhoeffer-Brenner diceva che. Scusa. Svilupparsi vuol dire arrivare a livelli più complessi di comprensione di una realtà più complessa. Quindi uscire dal microsistema, lo che lui chiama il microsistema, vuol dire io e la mia realtà più vicina, le mie amici e la mia famiglia, per capire che quello che io faccio lì è influenzato per quello che accade nella vita di loro in altre realtà, nel lavoro, nella scuola, nella loro famiglia. E che anche esiste un rapporto tra questo livello che lui chiama il mesosistema e anche altre realtà sulla quale questo soggetto non ha nessun controllo, però sulla quale lui incide e che incide anche in lui. Quello che Bonhoeffer-Brenner chiama il exosistema. Quindi se io parlo di sviluppo umano e io dico che questo livello di consapevolezza della realtà va in crescita, anche il modo come io faccio la mia le mie scelte, come io avanzo per il mio percorso, di fatto ha dietro una visione di società, ha una visione del mondo, ha una visione del rapporto tra le persone, quindi è una visione politica. Perché alla fine il concetto di politica è la vita del cittadino, la vita pubblica del cittadino, cioè la vita di ogni cittadino nel confronto delle altre, la scelta di questo cittadino e la sua partecipazione nella toma di decisioni, nella presa di decisioni che lo vanno a affettare, vanno a incidere su lui e sulle altre persone che fanno parte della sua società. Quindi la sfera dello pubblico, si chiamerebbe la sfera dello pubblico, della partecipazione, è nutrita per la sfera dello privato. Quindi parlare della dimensione o della sfera politico-sociale, della sfera erotico-affettiva, che è il rapporto suo con se stesso e con le altre persone in modo singolo, e anche, per esempio, della dimensione etica o etico-morale, confluiscono nella dimensione politica, però anche se tu parti del fatto che per avere sviluppo la persona, il soma, diciamo, il corpo deve essere in grado di svilupparsi, stiamo parlando di che la persona deve avere salute, deve avere il cibo, diciamo, deve poter avere sicurezza alimentare. Mm-hmm. Quello che Amartya Sen chiama le libertà strumentali, ok, los derechos instrumentales, ¿cómo se traducen? Le opportunità reali? Sì, no, diritti, so. Diritti strumentali. Non so se siete. La teoria di Amartya Sen del sviluppo, che lui chiama sviluppo come libertà, mette sul tavolo il fatto che noi, esseri umani, abbiamo diritti e siamo liberi? Sì, di fare. Ma molte volte non abbiamo la libertà di farlo perché non abbiamo l'opportunità. E lui mette sul tavolo una cosa che lui chiama di derechos instrumentali. Non so come si traduce all'italiano, sì. Quindi. Però. E questi è quello che noi dobbiamo anche capire. Se noi parliamo di sviluppo e abbiamo bambini che non hanno dove dormire, dove dormire? Non mangiano. O non hanno la possibilità di andare in autobus alla scuola perché devono andare a piedi 20 km per arrivare a scuola tutti i giorni. Questi ragazzi, questi bambini non hanno la stessa opportunità, biologicamente parlando, di arrivare allo stesso livello di sviluppo che altri che hanno questo. E questo quindi è una scelta politica, di fatto, cioè, dietro c'è. E lui ha fatto un po' una domanda con trampa, perché sa che questo è un tema sì, sì. che per me è molto. No, poi. Mi sto zitta. No, parla. No, che nel libro comunque tutta la riflessione è impostata all'interno di una relazione a tre, e sia nel contenuto, sia nella procedura narrativa, nella procedura di riflessione, viene fuori che fondamentalmente una scelta in favore del proprio, una presa di posizione, una scelta in favore dello sviluppo personale non può avvenire se non in considerazione dell'altro. E quindi di fatto non è possibile realmente dare luogo al proprio benessere senza considerare il benessere degli altri, ma non in termini, per usare una terminologia economica, visto che citavi Amartya Sen, non in termini di interesse, cioè parlando un po' anche di psicologia di comunità, no? Voglio dire, per tornare sulla questione politica, in Rutas c'è un richiamo, mi pare, alla fine una domanda, c'è un richiamo a una dimensione comunitaria delle relazioni o in contrasto, diciamo, al concetto di società dell'interesse? Guarda, diciamo, l'essere umano c'è multiple dimensioni, in quasi tutte quelle dimensioni lui si trova davanti il rapporto con le altre o lo altro, come si direbbe lo altro? L'altro. Ok, quindi delle altre o dell'altro. E questo già, di fatto, implica una dimensione sociale, perché quell'altro può essere vero o può essere immaginato. O sea, può essere un altro che è lì insieme di lui o può essere un altro che le ha parlato 10 cicli fa, 5 lustri fa, attraverso quello che ha scritto. Capito? O può essere quello che ha fatto un oggetto concreto. Quindi non è un richiamo perché un richiamo al confronto con le altre perché sia una scelta. È che non esiste la possibilità di parlare di sviluppo umano senza mettere in conto l'esistenza delle altre, perché diverse dimensioni del soggetto dipendono dalle altre. Fatto, insomma, parliamo di un bambino, vamo allo concreto, a volte abbiamo questa necessità di mettersi troppo filosofici. E io voglio, mi piace andare sul concreto. Parliamo del sviluppo di un bambino. Lui, se non trova chi gli dà il cibo, muore. Se non trova chi gli cambia il pagnale, pannolino, si ammala e muore. Ma anche se non trova chi lo accarezzi, abbia cura di lui, anche muore per una cosa che si chiama deprivazione affettiva, vero? Quindi questo fatto è una prova oggettiva del bisogno che abbiamo della presenza di quell'altro, solamente nella dimensione biologica. Ora, le altre dimensioni con più fattori hanno bisogno dell'altro. La dimensione cognitiva ha bisogno della realtà per svilupparsi. Se una persona non entra, non si confronta con gli oggetti, non capisce il mondo, non costruisce un pensiero. Se una persona non si confronta con le altre, non sviluppa un linguaggio. Se una persona non si confronta con le altre, non diventa un essere umano. Perché non accade un processo che si chiama socializzazione, neanche un processo che si chiama individuazione. Scusa, non so come si dice. Sì, identificazione e individuazione. E quindi se non accade questo processo, quella persona non diventa uno, non diventa un soggetto. E se non diventa un soggetto, non può stabilire rapporti con altri soggetti, perché non c'è la differenziazione tra lui e le altre. E quella è la dimensione erotico-affettiva, e potrebbe continuare a mettere esempi di ognuna delle altre 8 dimensioni, capito? Quindi di sicuro è un richiamo, però un richiamo non perché è un desiderio mio, è un richiamo perché dopo di aver fatto la ricerca io lo che ho trovato è che è impossibile parlare di sviluppo umano senza parlare del rapporto tra questo soggetto in sviluppo e le altre. E quindi è lì dove il ruolo del facilitatore è prezioso. Ok. Perché importante. La presenza di un altro lì, che c'è gli strumenti per spingere lo sviluppo, facilita l'arrivo di quella capacità di un modo più consapevole. È lì dove si esprime questa presenza dell'altro, in modo che noi possiamo essere strumenti per lo sviluppo delle altre. E qui anche un po' tutti torniamo al nostro vero posto. Non siamo più uno che è l'esperto, capito? Non siamo lo più importante qui, siamo un strumento. Siamo degli strumenti per il sviluppo delle altre quando abbiamo scelto il ruolo di educatori o il ruolo di professionali che lavorano nel sociale, ma anche possiamo essere strumenti per lo sviluppo delle altre quando abbiamo scelto il ruolo di genitori, per esempio. Ecco, prima di raccogliere le domande che il pubblico ci potrà proporre, quindi vi do il tempo di poter formulare qualcosa, vorrei giusto chiederti una chiarificazione su quello che da Rutas si, come dire, lascia un po' anche di mistero, ma giusto, appunto, siamo qui a parlare con te per toglierci questo mistero e chiarirlo. Ecco, la relazione che c'è tra la persona e l'altra persona e il contesto non è solo una relazione orizzontale, ma è anche una relazione verticale, e quando si parla di quella dimensione che si definisce come trascendente, a cosa ci si riferisce? Per non cadere anche in equivoci, facili equivoci strumentalizzanti, a cosa ci si riferisce, a questo senso della persona, a questa dimensione della persona trascendente? Ok, la dimensione trascendente parla del rapporto, della consapevolezza di che facciamo parte di qualcosa più complesso di noi. Non è una dimensione spirituale necessariamente, non è una dimensione religiosa. Può essere per alcuni la scelta della trascendenza è collegata a una scelta religiosa, a una scelta spirituale, ma non solo. Per esempio, in bambini molto piccoli, quella dimensione trascendente comincia a svilupparsi quando lui è in grado di capire che c'è un rapporto con la tetta della mamma. Tu dici teta? La teta della mamma. Ok. Sì, sì. Va bene. Effettivamente. Dopo mi guardano come quella seno, parola non la si dice. Teta, ma... Ok, ok. C'è un rapporto e lui fa, capisce che c'è lì una realtà della quale fa parte lui, già non è solo lui, ma piano piano questo bambino capisce che fa parte di una famiglia e la sua trascendenza si sviluppa nel capire che quello che lui fa parte di una realtà più complessa, che non dipende solo di lui, ma anche di quella dinamica che si stabilisce all'interno di quella famiglia. E via via quella frontiera del luogo che occupa si va ampliando. Quindi la persona si rende conto che lui fa parte di un sistema più complesso di lui. Quel sistema può essere un sistema spirituale, per quello che credono che esiste la reincarnazione, tutto quanto, il karma, il dharma, bene. Ma anche quello può essere, per quello che sa, che fa parte del ciclo della vita. Quindi che le sue molecole hanno una funzione, cumplono una funzione e che fa parte di un pianeta che quello che lui fa in suo nicho ecologico incide. Ha un'incidenza dei termini. Ok, su quello che accade su tutto l'ecosistema. Lì si parla anche di trascendenza. E questo è un po' pauroso per me. Quando ho cominciato a scrivere, io avevo sempre un po' il dubbio di se mi adentrava o no su questa dimensione. Però non si può parlare del sviluppo umano lasciando fuori la consapevolezza di che si fa parte di altre cose più complesse, perché una cosa che ho trovato nella mia ricerca è che questo senso di trascendenza è quello che fa la differenza tra una persona che per suo sviluppo di un modo consapevole, intenzionato e altre che no. Pongo un esempio. Nella Colombia, molti ragazzi finiscono la superior e non hanno nulla di fare, sanno che non c'è nulla di più, sanno che non troveranno un lavoro e quindi non hanno voglia di studiare, di andare a scuola, non hanno voglia di finire la superior, perché non sanno qual è il senso di questo, non trovano il senso. Dove abbiamo introdotto questo modello, abbiamo lavorato su questa consapevolezza, loro hanno, diciamo, tra altri fattori, non è l'unico, ma questo particolarmente ha stato molto importante, perché loro capiscano che quello che fanno è influito por aquellas cosas que están a su alrededor y también lo que ellos hacen incide sobre eso que ellos encuentran. Che ricevono un'influenza per quello che viene fatto dall'esterno e ugualmente loro con i loro comportamenti incidono, creano influenza sul comportamento degli altri. Grazie. Quindi trovano un senso a quello che stanno facendo lì. E quel senso di fare parte di una cosa più grossa o più grande di loro. È le start del quale hanno bisogno, le start, l'inizio, sì, via, ecco. Del quale hanno bisogno per fare la scelta di andare avanti, di non lasciare la scuola, per esempio. E quello è un esempio un po' banale, forse, per la vostra realtà, ma nella realtà nostra vuol dire ragazzi che non consumano droga per lo meno 2 o 3 anni più perché stanno a scuola, vuoi dire ragazzi che ragazze che non vanno, non si imbarazzano, che non rimangono incinte, che non rimangono incinte perché sanno che possono andare, che hanno altre opzioni diverse di quella che la realtà più vicina di loro li offre, capito? Quindi per me quello è il senso vero della dimensione trascendente. L'altra cosa è una scelta personale di come si vive la propria trascendenza, se si collega o no con la spiritualità, ma quella è un'altra storia, quella è una scelta, diciamo, personale. Però che la gente, che tutta la gente abbia la consapevolezza che fa parte di qualcosa più complessa, dentro della quale può trovare anche altre opportunità, fa la differenza nella vita singola, la vita di ogni persona singola, così si dice. la vita della, di ogni persona. Perfetto. No, il pubblico sicuramente avrà formulato qualche pensiero, qualche interrogativo su questa, a seguito di questa conversazione interessante, altrimenti continuo. Lasciamo. Prego. Mi avvicino. Buonasera a tutti, mi chiamo Tiziano. Buonasera Tiziano. Questa, vabbè, io in me dicevo, vabbè, stasera sono cresciuto ancora un po', nonostante l'età, nonostante sono cresciuto in funzione di questa conversazione. Mi facevo una domanda su quello che è la tecnologia che tende a indirizzare. Uso il termine indirizzare proprio perché l'ho sentito dire, l'ho sentito fare da chi è a capo o di chi è padrone di strumenti tecnologici come YouTube o come altre piattaforme del genere. Quella che hai, ti do del tu, va bene? Sì, forse quello che hai esposto è una... A mio vedere una magia, cioè è un mondo bellissimo dove davvero la crescita è in funzione di un modo di vivere consapevole e più importante, bello, magari anche lungo. Quella invece che mi si presenta oggettivamente è un'altra cosa, non dico il contrario, ma è la difficoltà oggettiva di avere una visione della mia vita nel sociale e al rovescio del sociale nel fronte della mia vita, difficile, complesso, e che mi dà l'impressione che non riuscirò mai a avere una visione che mi faccia camminare 2 millimetri sopra il terreno. Chi mi aiuta? Spesso esiste una distanza, deve farlo, se no non sarebbe neanche giusto, tra la costruzione teorica della realtà e la realtà. C'è lì un umbrale. Un spazio, un gap. Distanza che è giusto quello che ci dà la possibilità di continuare a crescere la nostra crescita. Questo modello c'è il vantaggio di aver essere sviluppato in una realtà già di fatto mediata per la tecnologia. Siamo con i ragazzi e i bambini che avevano più alla mano il smartphone che il libro, per esempio. E quello che io ho trovato, che non vuol dire che è la risposta, è la mia, quella che io ho trovato, ma ognuno troverà la sua, è che i ragazzi, i bambini, hanno bisogno di confrontarsi, diciamo, di avere l'opportunità di esprimersi per andare avanti, per trovare un significato per quello che stanno vivendo. Noi non possiamo preparare o costruire una realtà per ogni avance tecnologico. Noi dobbiamo lavorare per costruire esseri umani che continuino il suo processo di sviluppo consapevole durante tutta la sua vita. Ovviamente avranno bisogno di fare scelte, faranno scelte giuste e anche sbaglieranno. Però lo che io trovo è che questa possibilità la dobbiamo costruire noi di modo consapevole, noi di modo intenzionati. Io sono mamma di lei, questa è la mia figlia, si chiama Gabriela. È stata la prima partecipante di un programma per prima infanzia che si chiama Heroes. È stato così perché io volevo costruire una realtà dove lei potesse avere tutta l'opportunità e non trovava nessuna. E quindi va bene, questo è lo che faccio per vivere, quello che mi appassiona, lo faccio. E quindi ha nato Heroes. E io ho trovato che lei è stato in grado di adattarsi a diversi contesti. Siamo andato andato a una scuola molto grande con più di 1000 studenti e lei è stato in grado di fare scelte, di reagire a questa realtà, di capire come funziona, di capire anche qual è la dinamica che si dà all'interno di questa realtà. E così lo ha fatto in altre realtà. Mi dispiace mettere un esempio vicino così, però lo pongo sul tavolo. Che voglio dire con questo? Che se noi mettiamo alla mano dei ragazzi, fruibile, dei bambini, facilmente fruibile. Gli strumenti perché loro siano in grado di arrivare a quell'autonomia, loro potranno andare avanti anzi se si trovano con una realtà disruptiva. Quella parola esiste. Una realtà che dirompente. Certo. In altro modo avremo sempre la paura. Avremo sempre la paura di non aver fatto il giusto. E va bene, che quel lavoro nostro come genitore, come insegnante, di avere la paura. Quella paura è quello che ci mantiene nella jugada, svegli. Sì. Però è giusto anche dire che è possibile costruire una realtà dove loro possano essere più protetti, liberi, non protetti e chiusi, sino protetti perché hanno gli strumenti per fare scelte e anche per fare la modifica di quella scelta quando sbagliano. E la rete, il social, l'internet è un'altra, è semplicemente un altro contesto. Non è una cosa extraterrestre, è un altro contesto umano. E come è un contesto umano, ha tutte le possibilità, sia negativa che positiva, di qualsiasi realtà umana. Ora, è il mio modo di vedere. Per quello che noi adulti dobbiamo... Sì. Noi dobbiamo conoscere quella realtà, noi dobbiamo essere più avanti sempre, o provarci. E se no, loro possono anche istruirci. Non siamo sempre noi che dobbiamo stare nel ruolo di chi guida. In quella realtà dove loro sono più consapevoli, sono loro chi possono guidare a noi. Grazie Tiziano per la domanda. Altri interrogativi o dubbi? Se no andiamo verso la chiusura, perché l'orario mi sembra... Andiamo verso la chiusura. Ok, quindi altre domande dai relatori? Benissimo. Io sono curioso di sapere una cosa, poi ti passo la parola a Giulio perché magari hai interesse di approfondire alcuni temi. Abbiamo parlato di guida e... di esplorazione, ecco, ti chiederei quali sono state per te le guide che ti hanno marcato il cammino di esplorazione e quando hai sentito che si stava passando un po' la linea dall'esplorazione a poter vivere anche l'esperienza di guida, se ritieni di che la stai vivendo. Io ho avuto la sorte, la fortuna di trovare verso la strada molte guide veramente bravi. La prima, devo dire, la mia mamma è una insegnante, è una maestra, non so se quelle parole esistono. Sì, insegnante, maestra. No, è una maestra. Un insegnante sarebbe una docente, una professoressa. Ma lei, per noi in spagnolo, la parola maestra vuol dire una persona che si prende cura di... non solo della mente, ma anche di tutta l'integralità della persona. E quindi con lei ho cominciato molto piccola. E, come ce l'aveva detto, da 14 anni a lavorare in educazione. E poi ho trovato, per esempio, professor Javier González, che è l'autore di un materiale che si chiama ABC de Español, che ha lavorato sul tema del sviluppo cognitivo e del linguaggio con un materiale che si usa in questo momento in 15 lingue diverse, incluso più di 20 lingue indigene, per imparare a leggere e scrivere. Fatto in questo momento negli Stati Uniti lo usano per l'apprendimento dell'inglese per il non nativi, diciamo, no, persone angloparlanti. E poi, diciamo, questa signora che si chiama Silvia Casabianca, che lavora sul sviluppo, è stato lei che ha fatto questo gruppo, ha trovato le spazi, perché giovani come io, in quel momento giovani, ancora ci mettiamo giovani insieme per esprimere un po' la nostra inquietudine. E soprattutto le altre facilitatori, capito? Siamo, ogni persona con chi tu ti trovi deve essere in grado di offrire la possibilità di imparare di lei, diciamo. Ma è una scelta, diciamo, che deve essere una scelta personale. Ora, non sono una guida per tutto. Io penso che quando uno sa che è pronto, quando senti chi ha un dominio di una capacità per poter condividerla con le altre, è quel momento dove uno può essere guida su quel dominio in particolare. Non è possibile essere guida di tutto, per tutti, però è importante capire che io ho arrivato a un luogo dove posso condividere e ho voglia di condividere quel dominio che ho con le altre. Quindi è quel momento, quando io sento che su questa cosa c'è un dominio, io voglio essere guida, sennò continuo a esplorare. Devo chiudere? No, vai, apri. Che devo fare? Apri. Chiudo. Apri, chiudi. Prendiamo la parte. Va bene. Allora mi fermo. Si fa la solita ultima domanda. Cioè, qual è la solita ultima domanda? A ogni incontro è stato chiesto agli ospiti di lasciarci con una parola, scelta che abbia un significato particolare oppure no, con una parola su cui riflettere. Se dovessi scegliere una parola con cui lasciarci, sì, dirci poi il perché. Sì, consapevolezza, certo. Io lascerebbe la parola consapevolezza. Bene, facci anche una didascalia. Credo che si spiega con tutto noi l'incontro, perché l'importanza di consapevolezza. Non ha bisogno, okay. Credo che no. No, anzi. Roxy, quindi ti ringraziamo. Ringraziamo tutto il pubblico presente, assente e vicino a aver potuto condividere insieme questa oretta e poco più. E vi ricordiamo che settimana prossima, sabato 19, in questo solito spazio si darà l'ultimo appuntamento di prendere, non si dice mai l'ultimo, ma insomma penultimo appuntamento di prendere la parola, parleremo appunto del libro I Vagabondi Efficaci di Deligny con la curatrice e il curatore Luigi Monti e Lucchesini, se non erro, se no mi correggerà il gruppo e non mi corregge, quindi non erro. E la cura è di Luigi Monti. E quindi siamo pronti, perfetti. L'edizione è l'edizione dell'Asino. E anche questo bene. E allora, con questa chiusura, chiediamo un applauso generale per la nostra ospite Roxy. Grazie.